America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Our workers are the most productive on earth, and if the playing field is level, I promise you, America will always win. Barack Obama, lo avete sentito? Il discorso sullo Stato dell'Unione, il discorso che i presidenti americani tradizionalmente una volta all'anno pronunciano davanti al Parlamento riunito in seduta plenaria. Devo dire, è una delle liturgie più importanti, più emozionanti della democrazia americana. Quest'anno Obama non ha fatto solo un bilancio di quel che è successo nel 2011, ma ha anche dato un quadro per il futuro degli Stati Uniti d'America. Chiaramente ha dato un quadro in un contesto elettorale, ha sfidato i repubblicani, è stato molto interessante vedere le dinamiche in congresso, applausi quasi sempre dei democratici, i repubblicani restavano seduti, spesso facevano dei grandi boo, mentre su alcune delle questioni centrali, i militari, per esempio l'energia, invece gli applausi erano comuni. Right now Warren Buffett pays a lower tax rate than his secretary. Do we want to keep these tax cuts for the wealthiest Americans, or do we want to keep our investments in everything else? Because if we're serious about paying down our debt, we can't do both. The American people know what the right choice is. So do I. Primo tema importante, l'economia, ma soprattutto la sperequazione fiscale. È stato a questo punto che Obama ha portato come esempio, senza mai menzionarlo, quel che abbiamo appreso ieri da Mitt Romney, e cioè il suo reddito. If you make more than $1 million a year, you should not pay less than 30% in taxes. Chi guadagna più di $1 million, dice Obama, non può pagare meno del 30% di aliquota fiscale. Ebbene, ieri abbiamo saputo che Mitt Romney nel 2010 ha avuto un reddito di oltre $22 milioni. Su questo reddito ha pagato un'aliquota del 13,75%, poco più di $3 milioni. Naturalmente Romney ha fatto tutto in perfetta legalità, però è questo il punto centrale che Obama sta cercando di costruire nella sua campagna elettorale, e cioè che sono proprio situazioni di questo genere che impongono una riflessione molto importante. Obama sottolinea: non sono contro il capitalismo, non sono contro l'imprenditoria, l'America è un paese che apprezza il successo, ma proprio perché chi ha successo viene poi premiato, deve quantomeno contribuire in modo equo alle casse dello Stato. We have a supply of natural gas that can last America nearly 100 years. And my administration will take every possible action to safely develop this energy. Parlando dell'energia, della sfida energetica, Obama ha dato un messaggio rassicurante, ha detto che le riserve di gas naturale in America possono bastare al fabbisogno nazionale per i prossimi 100 anni. Ha ribadito il suo impegno, la sua assoluta determinazione a far sì che l'energia pulita possa prevalere nel fabbisogno degli Stati Uniti d'America. Ecco, avete sentito in queste dichiarazioni che vi ho proposto prima la reazione del Congresso è stata una standing ovation, un applauso a scena aperta, dove sia repubblicani che democratici si sono uniti nel approvare le parole del presidente. America is determined to prevent Iran from getting a nuclear weapon, and I will take no options off the table to achieve that goal. Tutte le opzioni sul tavolo. Parlando di politica estera, il presidente americano, ha fatto qualche attacco sul piano commerciale alla Cina, ha ricordato di aver fatto accordi commerciali con paesi stranieri, ma parlando di politica estera il tema forte è stato l'Iran. Tutte le opzioni sono sul tavolo se Teheran non rinuncerà alla bomba atomica, al suo progetto nucleare. Il presidente americano ha ricordato la primavera araba, ha ricordato l'uscita di scena di Gheddafi grazie all'azione in Libia, e ha detto alla Siria molto chiaramente: ricordatevi che questa ondata non si ferma, è meglio accelerare i tempi piuttosto che trascinarli. Messaggio forte. Devo dire che però sull'Iran poi subito dopo ha detto: naturalmente il tavolo del negoziato resta aperto. Non aveva bisogno di dirlo, il messaggio deve restare forte. È chiaro che poi il tavolo del negoziato è aperto. Questo, se volete, è un difetto di Obama e uno dei punti deboli del suo discorso. Devo dire, un discorso che a me è piaciuto molto, soprattutto quello che abbiamo visto è stata una grande passione da parte di Barack Obama. Abbiamo visto l'oratore di un tempo, abbiamo visto un uomo in grado di coinvolgere emotivamente il suo pubblico, e devo dire, abbiamo visto un uomo di una qualità diversa dal punto di vista della retorica e dell'oratoria rispetto ai suoi concorrenti repubblicani che vorrebbero scalzarlo dalla Casa Bianca. Non vedo come un Mitt Romney, così un po' legnoso, un po' scontato, o un Gingrich che è sicuramente più energetico, ma non ha quella passione che ieri ha trasmesso Barack Obama, ecco, non vedo come questi concorrenti possano vincere contro di lui in un dibattito, possano vincere contro di lui nel confronto ravvicinato quando ci saranno i comizi a livello nazionale. La partita oggi si gioca sull'elettorato di centro, si gioca sugli elettori ancora incerti, si gioca sugli indipendenti. Ecco, io credo che Barack Obama abbia avviato la campagna elettorale diretta. È stato interessante, tra l'altro, fare un confronto tra il discorso di ieri di Barack Obama e il dibattito a cui ho assistito a Tampa. Di nuovo, mi ha dato una possibilità molto concreta di poter verificare quanto diversa sia la qualità oratoria di questi personaggi politici, tutti indubbiamente molto bravi. All that mattered that day was the mission. One of the young men involved in the raid later told me that he didn't deserve credit for the mission. It only succeeded, he said, because every single member of that unit did their job. Ultimo grande momento di emozione di questo discorso quando Barack Obama ha ricordato la missione dei Navy SEALs, della squadra speciale che ha catturato e ucciso Osama Bin Laden. È stata, ha detto Obama, una decisione molto difficile, ma voglio che sappiate che quel che per me oggi è più importante, uno dei tesori più grandi che ho, è la bandiera che i Navy SEALs hanno portato con sé nel momento in cui sono andati in missione per uccidere il nostro nemico. Questa bandiera adesso è con me alla Casa Bianca, ci sono le firme di tutti gli uomini che hanno partecipato alla missione. Uno di loro che ha avuto un ruolo chiave, ha raccontato Obama, mi ha detto: non voglio meriti speciali, è stato un gioco di squadra. La parabola dei Navy SEALs per Obama è una parabola che ha voluto raccontare per dare un messaggio a Washington, la Washington divisa, la Washington dei repubblicani e dei democratici, che non riesce a trovare un equilibrio al centro, ma che opera soprattutto cercando di fare ostruzionismo nei confronti del nemico politico per poter guadagnare dei punti. Ecco, ha detto Obama, il messaggio che noi dovremmo imparare da questi uomini che servono la nazione in guerra è un messaggio per noi che serviamo la nazione dal punto di vista politico, ed è il messaggio che soltanto insieme riusciremo a trovare un percorso davvero costruttivo per il futuro americano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, avremmo dovuto parlare delle nomination per i premi Oscar, lo faremo domani, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Nell'era di internet è più facile che mai per cantanti e gruppi musicali agli esordi farsi conoscere dal grande pubblico, e quel che è accaduto ai Pickwick, una band di Seattle, il cui primo disco autoprodotto ha già raggiunto il successo dei Pickwick, dunque, Hacienda Motel. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.